24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la situazione in Grecia, sempre più critica dopo il varo delle nuove misure di austerità e i forti dubbi europei. Martedì Bruxelles invierà le raccomandazioni sulla governance economica ai 27. Europa verso nuove sanzioni contro la Siria, mentre Bruxelles ha aperto un'indagine formale per aiuti di Stato contro l'Italia sulle quote latte. Infine è allarme insegnanti nel vecchio continente. Tutti i dettagli tra poco. Ed è stata allora un'altra giornata di fortissime tensioni in Grecia, venerdì con dimissioni nel governo e scontri nelle strade per le proteste sul nuovo pacchetto di austerità. Sullo sfondo un'Europa che non crede fino in fondo alla nuova serie di misure e servizio. Sale la tensione sociale e politica ad Atene, dove la destra estrema, Laos, al governo ha deciso di non firmare il piano di austerità e di offrire le dimissioni, mentre nella piazza sfocia la violenza. Scontri si sono verificati ad Atene tra manifestanti e forze di polizia nell'ambito delle proteste coincise con lo sciopero generale indetto venerdì e sabato dai sindacati contro i tagli decisi dal governo Papademos per poter ottenere i 130 miliardi di aiuti. Intanto il commissario UE agli affari economici e monetari, Olli Rehn, ricorda da Bruxelles che il governo greco ha tempo entro l'Eurogruppo di mercoledì per presentare le misure con cui chiudere il gap fiscale di 325 milioni di euro che finora sono stati coperti con generici e fumosi tagli di spese alla difesa. Infine la POSI, il sindacato di polizia greco, ha chiesto addirittura l'arresto della Troica, che accusano di voler strangolare il paese attraverso le misure draconiane imposte al governo di Atene. Vittorio Darol, Radio 24, Sole 24 Ore. Chiuso il capitolo degli aiuti alla Grecia, ci potrebbe essere da concordare un aggiustamento del programma per il Portogallo. È quanto sembra emergere da un colloquio tra il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble e il collega portoghese Vitor Gaspar, rubato da una telecamera durante il vertice dei ministri delle finanze di giovedì a Bruxelles. Nel video si può sentire Schäuble mentre dice: se aveste bisogno di un aggiustamento per il programma di aiuti, noi saremmo pronti. Arriveranno martedì le raccomandazioni di Bruxelles ai 27 previste nell'ambito della governance rafforzata del six-pack per correggere gli squilibri macroeconomici. Il rapporto del cosiddetto meccanismo di allerta sarà presentato dal vicepresidente Olli Rehn a Strasburgo. Chiusura debole per le borse europee, penalizzate dalla delicata situazione in Grecia, con il clima politico che sta diventando sempre più incandescente. Milano ha chiuso in calo dell'1,36%, Parigi dell'1,48%, Londra dello 0,63%. Sentiamo. Chiusura debole per le borse europee, penalizzate dalla delicata situazione della Grecia, dove il clima politico sta diventando sempre più incandescente. Milano ha chiuso in calo dell'1,76%. Sono andate male le banche, con Unicredit e Dubi che hanno guidato i ribassi accusando un calo di oltre il 4,7%. Sono inoltre andate giù le Fiat, -3,28%, mentre Impregilo ha registrato un progresso superiore al 2%, recuperando parte dei punti persi la vigilia dopo che si sono diffuse le indiscrezioni su una imminente cessione della quota dei Benetton al gruppo Gavio. Pirelli ha guadagnato lo 0,27%, beneficiando degli ottimi dati di 2011 della concorrente francese Michelin, che a Parigi tuttavia ha perso il 2,7%. Tra le azioni fuori dal paniere principale si sono di nuovo infiammate le Fonsai, +10,1%, mentre il mercato si interroga sulla mossa di Palladio Finanziario, che ha acquistato il 2,2% del capitale. Premafin però ha perso lo 0,29% e Unipol, la società che si fonderà con la compagnia, ha registrato una flessione del 3,3%. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Il maltempo continua a imperversare nel continente. Nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente proibitive sia in Russia che in Europa, Gazprom riesce ad assicurare forniture stabili e sicure di gas ai clienti europei grazie all'utilizzo degli stoccaggi sotterranei. Lo si legge in un comunicato del gruppo russo in cui si precisa che Gazprom ha estratto gas dai propri stoccaggi sotterranei in Europa al massimo livello possibile. L'Unione Europea rafforzerà alla fine di febbraio le sanzioni economiche contro la Siria, vietando le esportazioni di fosfati, il commercio di diamanti e pietre preziose e congelando i beni della Banca Centrale di Damasco, lo hanno reso noto fonti diplomatiche. È stato un bene che si sia proceduto a una maggiore integrazione fiscale in Europa, ad affermarlo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che venerdì era in visita ad Helsinki. Un incoraggiamento e un monito. Ciascun paese deve assumersi le sue responsabilità, spiega il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da Helsinki. L'Italia lo sta facendo con decisioni difficili e duri sacrifici, in particolare per ridurre il debito pubblico, per non lasciare che gravi sulle giovani generazioni. Possiamo farcela, sprona il Capo dello Stato. Se c'è chi pensa che si può essere al sicuro tornando al passato, si colloca fuori dalla realtà. Dobbiamo esprimere più orgoglio e più fiducia nell'Europa e per consolidare i conti e favorire la crescita dobbiamo andare oltre il mero coordinamento delle politiche economiche internazionali. Il mondo è radicalmente cambiato e il baricentro dello sviluppo si è allontanato dall'Europa, spiega ancora Napolitano. Abbiamo dovuto affrontare una fase di preoccupazioni, incertezze e cambiamenti, ma ne occorrono altri. L'Europa non è solo l'euro, è molto di più. L'interconnessione è così profonda da rendere inimmaginabile una sua dissoluzione. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Quote latte, la Commissione europea ha aperto una procedura di indagine formale verso l'Italia sugli aiuti di Stato e servizio. Nessuno sconto per l'Italia da Bruxelles sulle quote latte. La Commissione europea ha aperto infatti nei confronti del nostro paese una procedura di indagine formale per aver concesso ai produttori, in ritardo con il pagamento delle quote, una proroga alle rate delle multe. Tale proroga è considerata un aiuto di Stato incompatibile con i trattati europei. L'Italia ha ora un mese di tempo per fornire chiarimenti alla Commissione ed evitare la procedura di infrazione. In particolare, il richiamo riguarda la proroga di 6 mesi concessa con un decreto di fine anno a chi non aveva pagato le rate entro la scadenza del 31 dicembre 2010, proroga questa inserita nel mille proroghe approvato il 25 febbraio 2011 durante una seduta parlamentare decisamente animata ed accompagnata dal voto di fiducia. Nel caso la Commissione europea decidesse che la proroga non è conforme alla normativa, si sancirà l'illegittimità della stessa, quindi si chiederà ai produttori interessati di provvedere al pagamento della rata e di restituire gli aiuti di cui hanno beneficiato. Un tema dunque quello delle quote latte che torna in primo piano e che interessa in particolare la Lega. Ed anche di questo hanno parlato lo scorso mercoledì a Palazzo Chigi il premier Monti e il leader del Carroccio Umberto Bossi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. Maggiore flessibilità attraverso una riduzione dei costi di licenziamento. Il governo spagnolo di centrodestra, targato Mariano Rajoy, ha varato venerdì l'attesa riforma del mercato del lavoro che prevede indennità di uscita meno care per gli imprenditori. E il premier britannico David Cameron ha proposto di offrire sgravi fiscali alle donne lavoratrici che assumono domestici e babysitter, sollevando forti contestazioni da parte di economisti e opposizione. La proposta è già operativa in Svezia con l'obiettivo di sostenere la carriera professionale delle donne. E allarme insegnanti nel vecchio continente, a lanciarlo la Commissione europea. In molti paesi dell'Unione Europea si registra una grave carenza di insegnanti. Lo certifica il rapporto 2012 sul settore dell'istruzione pubblicato dalla Commissione Europea. A rischio in particolare l'Italia, che è il paese dell'Europa 27 con la percentuale più alta di insegnanti ultracinquantenni nelle scuole superiori, il 57,8%. Segue la Germania, dove però la percentuale scende di molto, non arrivando neanche al 51%. Allo stesso tempo, in questi due paesi, oltre che in Bulgaria, Spagna, Austria e Islanda, il numero di insegnanti sotto i 30 anni è molto basso ed è sempre l'Italia a detenere il record al negativo, con la percentuale di professori under 30 più bassa in assoluto, lo 0,5%. La Germania è al 3,6%, la Bulgaria al 5,5% e la Spagna al 6,8%. A rendere il fenomeno preoccupante, spiega il rapporto della Commissione europea, il fatto che il numero di laureati aspiranti insegnanti continua a scendere mentre parallelamente aumenta quello degli insegnanti al lavoro che si avvicinano alla pensione. Roberta Pellegatta, Radio 24. E sole 24 ore. Il 74% dei viaggiatori europei non sa quale numero chiamare in caso di emergenza. Per questo la Commissione ha deciso di lanciare una campagna mirata a far conoscere meglio il numero unico 112. Genova fa cappotto nella competizione europea per aggiudicarsi i fondi destinati ai progetti per rendere intelligenti le città. La notizia dalla voce di Gloria Piaggio, segretario generale dell'associazione Smart City. Genova, che aveva partecipato al bando europeo sulle Smart Cities and Communities chiuso a dicembre, ha vinto su tutte e tre i topic, su tutte e tre i temi, che erano: il primo riguardava la pianificazione, quindi proprio il sistema di come andare a integrare tutte le pianificazioni che ci sono in una città, e siamo arrivati primi. Il secondo riguardava il riscaldamento e il raffreddamento, e noi abbiamo un progetto di teleriscaldamento che toccherà tra l'altro una delle zone colpite dall'alluvione di novembre e che sfrutterà una tecnologia innovativa della riduzione della pressione del gas. E il terzo riguarda l'efficientamento energetico di una casa popolare, una social house, la diga di Begato, dove andremo a fare un intervento di efficientamento dell'involucro esistente per migliorarne la resa. Il tutto significa 6 milioni di euro che arrivano alla città di Genova per questi progetti. Era questa l'ultima notizia di 24 ore in Europa. È tutto quindi per il nostro appuntamento. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.